Ora non esageriamo. Io sono Sahir, capo di un piccolo villaggio al confine con il deserto. Ci stiamo dirigendo proprio là. E voi? Chi siete?